E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Incontri di Gianfranco Fabi. Con la voce inconfondibile di Whitney Houston, indimenticabile Whitney Houston, incominciamo il nostro incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a Bruno Dardelli. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per essere qui con voi a questa meravigliosa trasmissione. Whitney Houston, prima di presentare la sua persona, la sua esperienza, perché le piace Whitney Houston, questa grande interprete, molto molto vivace, molto, potremmo dire, colorita, molto appassionata? Sì, io praticamente ricordo tutta la mia gioventù che è legata a Whitney Houston, dove erano le prime uscite, le prime serate in discoteca, e già sognavo l'imprenditoria, il mio percorso lavorativo. Sono molto legato a lei proprio perché dal successo che in quegli anni lei viveva, io già sognavo i miei successi. Ecco, sognare un successo per un imprenditore direi che è nella natura delle cose, amare un po' il rischio, cercare di fondare cose nuove. Lei ha fondato e ha avuto successo, un successo che sicuramente dovrà continuare, la Nardelli Luxury, una società nel comparto della gioielleria, degli orologi, insieme a suo fratello Domenico. Ma com'è iniziata questa esperienza? Perché dove e quando ha scelto di entrare in questo settore e ha scelto di fare appunto l'imprenditore? Bene, io venivo dall'azienda di famiglia, come lei dice, di mio fratello Domenico, dove lui ha iniziato il primo percorso artigianale e imprenditoriale. Io, come scia di fratello più piccolo, ho seguito le sue orme. Poi via via ho visto che negli anni successivi il mercato si trasformava e io ho intrapreso il mondo delle licenze. Che anni erano? Anni, anni 80? Anni 80, ero negli anni 80 dove ho iniziato i miei primi passi con lui. Poi negli anni 98-2000 ho incominciato a guardarmi intorno, anche perché iniziava la tecnologia, i centri commerciali, si trasformava un po' il mercato, non era più visto come il gioiello di famiglia, il gioiello lasciato da madre in figlio, ma un po' si allontanava questa tradizione di famiglia. E allora ho intrapreso il mondo delle licenze, mi guardavo intorno, al che mio fratello Giuseppe, un altro fratello che si occupa dell'abbigliamento, aveva fatto dei grossi percorsi con Liu Zhou abbigliamento, al che una domenica mattina mi sono visto con lui, ho detto: Giuseppe, magari mi puoi presentare il signor Marco Marchi, che vedo che tu stai intraprendendo con lui dei percorsi imprenditoriali importanti, io potrei proporre una linea di gioielli e orologi. E quindi ecco, diciamo che è un vizio di famiglia quello di occuparsi del lusso e occuparsi di questa attività. Abbiamo dimenticato di dire dove è nata questa attività, come si è sviluppata. Allora, noi nasciamo a Napoli come imprenditori locali, poi ci siamo dovuti trasformare perché la moda è Milano e l'azienda Liu Zhou è di Carpi, ci siamo avvicinati al nord e abbiamo comunque ormai già da 7 anni intrapreso questo impianto su Milano. Abbiamo logistica su Milano, abbiamo uffici in centro di Milano a Torre Velasca e abbiamo iniziato questo percorso perché comunque la distanza era tanta e dunque dovevamo noi avvicinarci a quello che poteva essere la moda. Ma quindi resta però un po' il cuore a Napoli? O? Sicuramente, io ci sono una volta al mese, sono giù, sono lì a Napoli per poter vedere i miei valori e tutte quelle che possono essere la famiglia. Che cosa ha portato di Napoli a Milano? Guardi, io credo l'ottimismo, perché noi meridionali abbiamo nel sangue l'ottimismo, è una cosa che credo ci contraddistingue, perché comunque il meridione ha sempre vissuto dei problemi sotto tanti aspetti. E allora noi portiamo sempre l'ottimismo, che è quello che oggi secondo me è uno dei punti che bisogna tenere duro, perché senza ottimismo, se guardiamo il paese, siamo un attimino tutti un po'... Ecco, ogni tanto, soprattutto noi al nord, guardiamo un po' al sud come con un atteggiamento un po', vediamo un po' di rassegnazione, un po' di tendenza a lasciare un po' le cose come stanno. Forse è una visione un po' sbagliata. Sì, effettivamente sì, perché ci sono tanti imprenditori e tanti, diciamo, tante persone del sud che vorrebbero, ma sono purtroppo lasciati da solo. E questo un po' a me, che mi sono allontanato dalla commercializzazione di un prodotto artigianale come il nostro, perché comunque i prodotti che noi facciamo come gioielleria erano molto tradizionali, artigianali. Purtroppo questo poi un po' c'è la staticità in questo, però ci sono tanti che comunque portano avanti con gloria il loro prodotto. Qual è stata quella che possiamo chiamare la chiave del successo del vostro tipo di azienda, tipo di accesso al mercato? Il successo vero e proprio, secondo me, è sapere ascoltare l'esigenza del consumatore. Oggi il consumatore ha sempre meno soldi in tasca e bisogna comunque cercare di creare un gioiello accessibile, non un gioiello che lo vedi ma non lo puoi acquistare. Noi cerchiamo di dare la possibilità a chi non può e ha pochi soldi in tasca di acquistare un gioiello con le stesse caratteristiche, canoni di un gioiello vero, ad un prezzo accessibile. Ecco, ma quindi un gioiello che resti di lusso ma che sia di massa? Non proprio, nel senso che dobbiamo trovare, lì sta la bravura dell'imprenditore, a trovare il giusto compromesso, di non farlo diventare proprio di massa, di farlo rimanere ancora, diciamo, con gli standard del gioiello accessibile, ma non farlo diventare troppo, diciamo, massificato. Ecco, questo... siamo in un momento di crisi generale, se ne parla tanto, se ne parla anche giustamente, forse se ne parla ogni tanto anche un po' troppo e magari anche troppo in senso negativo. Anche questa crisi sul mercato del lusso si fa sentire, oppure è un mercato che resta un po' al riparo da queste difficoltà sul fronte proprio dei consumi generali, insomma, delle difficoltà di spesa delle famiglie? Sì, questo sicuramente, effettivamente oggi è dura un po' per tutti, però la cosa fondamentale è cercare di trovare, ripeto, il giusto compromesso nel dare al consumatore un qualche cosa che possa, ma che non intacchi troppo nelle proprie tasche. Quindi qualcosa anche che risollevi un po' il morale, il gusto del bello, la ricerca di qualche soddisfazione è sempre, fa parte sempre della realtà, dell'identità della persona. Sì, infatti è proprio quello. Oggi, con tutti i messaggi purtroppo mediatici che vengono tartassati i consumatori, noi cerchiamo di fargli trovare anche un momento di rilassamento e di un sogno che realizza con una possibilità economica accessibile. E quindi voi adesso siete presenti come e dove con la vostra Nardelli Luxury? Noi con la Nardelli Luxury siamo con sede a Milano. Adesso faremo una fiera molto importante nel 2012 che è a Basilea, dove faremo anche lì degli investimenti con degli uffici, andremo ad ampliare molto l'estero, perché comunque l'Italia abbiamo fatto delle ottime performance e adesso ci stiamo aprendo al mondo. Devo dire che anche qui Marco Marchi, il proprietario di Luigi O Abbigliamento, mi ha dato e mi ha spinto ad ampliare quelle che possono essere le prospettive worldwide, proprio per poter sopperire anche alle perdite di mercato che in questi ultimi anni si sono avuti in Italia. Quindi quali mercati state puntando? Noi adesso stiamo partendo molto bene con l'Europa. Il mercato oggi più interessante, dove stiamo anche lì investendo moltissimo, perché la Luigi O come casa madre ha aperto 52 monomarca come abbigliamento e noi faremo la scia all'interno di questi monomarca con dei nostri corner personalizzati con orologi e gioielli, è l'Asia. L'Asia è uno dei mercati che stiamo investendo tantissimo. L'Asia è importante anche come produzione di parte di quello che voi realizzate. Esattamente. Noi, per quanto riguarda tutta la parte orologi, la facciamo tutta in Asia, tutta lì, perché ormai i cinesi stanno mantenendo loro le produzioni per quanto riguarda l'orologio, mentre invece per quanto riguarda la gioielleria riusciamo ancora a mantenere le produzioni in Italia, ma facendo veramente molta fatica perché i costi delle manifatture italiane sono ancora molto alti. Ancora con la voce indimenticabile di Whitney Houston, riprendiamo il nostro incontro di oggi con Bruno Dardelli, amministratore delegato di Dardelli Luxury, una società specializzata nel comparto dei gioielli e degli orologi che ha avuto una grande crescita negli ultimi anni. Abbiamo concluso la prima parte parlando appunto del fatto che comunque le difficoltà sul mercato italiano si sentono, c'è la necessità di andare all'estero. Dardelli Luxury sta facendo degli investimenti sul fronte internazionale, sia in Europa sia sul fronte asiatico, sia in Cina. La Cina è un mercato promettente. Sì, noi ci stiamo puntando molto perché comunque negli ultimi anni c'è un'espansione anche in termini di acquisti del prodotto italiano lì in Cina. Ovviamente bisogna prima mettere delle basi con dei monomarca per poi ampliare quelle che possono essere le distribuzioni. E pensa che sia possibile appunto vendere ai cinesi dei prodotti fabbricati in Cina con un marchio italiano? Assolutamente sì, perché noi mettiamo il nostro know-how con lo stile, tutto quello che può essere il disegno del prodotto e l'innovazione del prodotto, cosa che i cinesi sono molto bravi a produrre ma non a realizzare. Quindi il controllo di qualità resta italiano. Assolutamente sì. Ecco, in questa prospettiva vi parlava prima delle difficoltà di fare azienda in Italia. Un imprenditore, soprattutto un giovane imprenditore, si trova di fronte a cose che sappiamo, le complessità burocratiche, le difficoltà, il peso fiscale e così via. Ecco, che cosa secondo lei è il punto più debole della realtà italiana in questa prospettiva di cui tutti parliamo? Bisogna crescere, bisogna cercare di avere in qualche modo una ripresa economica, ma siamo tutti fermi. Su che cosa dobbiamo agire per smuovere l'economia? Io credo che la cosa più importante sia avere l'ottimismo e credere che il paese debba, se ce l'ha fatta dopo il dopoguerra, ce la può fare anche dopo la crisi. Dunque io da giovane credo molto nelle istituzioni, perché il passato bisogna girare pagina. Se noi giovani non abbiamo più fiducia, e questo purtroppo è un dato che comunemente mi raffronto con degli amici, colleghi, un po' la gente è sfiduciata nei confronti delle istituzioni e questo non va bene. Io mi batto nel dire fare pulizia, perché questo è un qualcosa che ci vuole per il bene del paese, ma anche tenere forza e dare fiducia a chi domani governerà il paese. Ecco, i giovani bisogna anche dire forse è il momento di diventare imprenditori, di non cercare il posto fisso, un posto fisso che è forse sempre più difficile e poi non è più fisso come un tempo. Forse la sua esperienza può dire che fare gli imprenditori riserva anche grandi soddisfazioni. Assolutamente sì, io ho avuto delle grosse soddisfazioni in un momento di grandi difficoltà del paese. Con tenacia, grinta e innovazione sono riuscito ad ascoltare quelle che potevano essere le esigenze del consumatore, perché comunque noi abbiamo investito tantissimo nella ricerca, nel capire perché un consumatore acquistava un gioiello o no, e a quel punto ci siamo adeguati a quelle che potevano essere le innovazioni e le richieste e le esigenze del mercato. Anche perché poi ha potuto, lo diceva prima, avere un po' un supporto di una rete familiare, questo è stato importante. Sì, questo è stato di fondamentale importanza, perché avendo una base di partenza è stato un percorso un attimino più facile, ma comunque difficile, perché io ho cambiato totalmente quelle che potevano essere le tradizioni del gioiello classico e andare a fare un gioiello di mass market. Questo è stato, diciamo, difficile, perché non avendo un know-how di quel tipo di prodotto ho dovuto fare tutto da solo. Ecco, anche su un prodotto tradizionale come quello, come un gioiello, però l'innovazione diventa fondamentale. Sì, l'innovazione è importante perché comunque stimola il consumatore all'acquisto del prodotto. Se invece noi lasciamo tutto fermo, senza innovarci, senza dare stimolo al consumatore che guarda una comune vetrina, diventa ancora più statico. Questo è di fondamentale importanza. Ecco, abbiamo parlato del supporto che le ha dato questa rete familiare, forse non altrettanto supporto gliel'hanno dato le banche. Sì, diciamo che io nel periodo in cui sono partito con questo sprint che avevo bisogno delle banche, lì le banche erano purtroppo anche loro in grosse difficoltà e con grinta e tenacia abbiamo approvvigionato delle nostre risorse per poter partire con il progetto. Ovviamente è stata una scelta dura, difficile. Però i risultati sono arrivati. Ecco, quindi il sistema bancario, preso in generale, non facciamo casi particolari, però potrebbe fare di più per l'imprenditoria. Sì, in particolar modo per i giovani imprenditori che hanno un progetto e che lo vogliono portare avanti con la grinta e con il giusto stimolo, ma anche con il supporto finanziario. Ecco, il supporto finanziario è indispensabile e a livello di rapporti, diciamo così, amministrativi, burocratici, con il contesto in cui si è trovato a lavorare, la necessità, che so, di aprire nuovi punti vendita, quali sono state le difficoltà maggiori che avete incontrato? Guardi, io ho grosse difficoltà, non ho trovato a livello burocratico, ma quello che era importantissimo, l'unica difficoltà che io ho avuto sullo startup iniziale sono state proprio gli investimenti economici, dove noi avevamo bisogno, ripeto, di un supporto bancario, dove in quel momento che siamo partiti purtroppo non abbiamo trovato. Ecco, se lei dovesse pensare adesso appunto di fare il passo che ha fatto, si fermerebbe a Milano oppure andrebbe, che so, in Svizzera, in Germania, in Cina a insediare la propria attività, la sua attività? Guardi, io da italiano e partenopeo dell'Italia che amo tantissimo, la scelta di restare qui sarebbe nuovamente la stessa. Quindi l'Italia resta ancora nel cuore, ma quindi è possibile fare business in Italia, è possibile trovare nuovi mercati anche in Italia. Sì, in Italia c'è tanto da fare, l'importante è conoscere e analizzare bene le esigenze del mercato, perché creare un prodotto senza capire se quel prodotto può essere o non essere interessante per i consumatori, non si va da nessuna parte. Che cosa dice a un giovane che lei assume, magari in prova, per entrare nella sua azienda? Gli dico che l'azienda non è mia, ma è di tutti noi. Ognuno è una grande torta dove ognuno attinge alla propria fetta di torta. E questo è sicuramente, lei assume ancora dei giovani nella sua azienda. Sì, io punto sui giovani perché i giovani hanno voglia, grinta di fare e quello è importante per stimolare tutto il team dell'azienda. Senza giovani non si va da nessuna parte, diventerebbe un paese vecchio. Ecco, ma la scuola italiana forma abbastanza i giovani, non solo dal tuo profilo culturale, quanto sotto il profilo proprio del carattere, dell'abitudine, della volontà di affrontare in maniera nuova i problemi nuovi che la società pone. Sì, la scuola per me è molto importante perché oggi noi nell'azienda senza uno strumento che ci dica la persona che andiamo ad assumere chi è e cosa fa, non si va da nessuna parte. Però la scuola più importante è quella di avere ogni giorno a che fare direttamente con le persone umane, perché quella è la prima scuola, secondo me. Ecco, però forse ci sono pochi rapporti tra la scuola e le imprese. La scuola vive un po' nel suo mondo. Sì, questo un po' è vero. Infatti noi nell'ultimo anno abbiamo fatto anche al Politecnico di Milano delle conferenze, abbiamo fatto la IULM di Roma, anche lì abbiamo fatto delle conferenze. Interagire con l'imprenditore, secondo me le istituzioni e le scuole devono farlo sempre più spesso. Lei quando andava a scuola, magari a scuola media o al liceo, cosa sognava di fare? Il pompiere, l'ambasciatore oppure il vigile urbano? Guardi, io tenendo un padre che era commerciante, ho sempre sognato di commercializzare dei prodotti, non ho mai sognato il posto fisso. Ecco, il posto fisso o magari qualche impiego un po' strano, un po' diverso, no? No, no, no, avevo sempre l'idea di. È una cosa che avevo dentro e l'ho portata avanti. E allora adesso guardando in avanti, dopo aver guardato al passato, quali sono i prossimi obiettivi che ha come Bruno Nardelli, oltre che come Nardelli Luxury? Il primo obiettivo è capitalizzare l'azienda, perché come nel passato, avendo dei grossi capitali che mi hanno permesso di portare avanti dei progetti, è il primo obiettivo che ci siamo dati. Tagliare, tenere un'azienda snella che non sia elefantia con i costi e portare avanti eventualmente dei nuovi progetti, come il nuovo progetto che stiamo portando avanti adesso con US Polo, questo marchio americano, dove in collaborazione con Franco Zuccon, che è un veterano del mondo dell'orologio, abbiamo portato avanti nel 2012 questo nuovo progetto che è l'orologio stile America. Ecco, l'orologio ci sarà sempre, il tempo ci sarà sempre bisogno di un orologio, quindi in questo senso si può dire che lei non vede l'ora di crescere. Esattamente sì. Grazie mille a Bruno Dardelli di essere stato con noi questo pomeriggio, lo ricordo, amministratore delegato di Dardelli Luxury, società leader nel campo dei gioielli e degli orologi. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Ringrazio anche Paolo Corleoni in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Incontri è per domenica prossima. Buona domenica e buon pomeriggio a tutti.